America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Negli Stati Uniti, se hai un sogno, lo puoi realizzare e si può avverare. Non è mai troppo tardi e quello che volevo dire è che appunto vorrei dare un futuro migliore ai miei figli, alla mia famiglia e chi non risica non rosica. Giovanni Paolo Facchinetti, ve lo ricorderete questa storia che ha aperto la nostra serie su Solo Andata. Facchinetti che cercava il sogno americano in modo direi abbastanza semplice, voleva fare il camionista, portare il suo mestiere che faceva in Italia e poterlo fare in America. Ecco, di questo ne abbiamo parlato a lungo, ne abbiamo parlato con molte persone, con professori, con conduttori, con giornalisti, con politici, perché insomma colpiva che oltre ai cervelli oggi nell'Italia del 2013 c'è qualcuno che vuole emigrare in America per fare il camionista. La storia comincia nel 2010, poi va avanti, poi Facchinetti forse cerca di fare il pizzaiolo, poi non funziona. Insomma, ne abbiamo parlato, per esempio, con Cruciani, con Giuseppe Cruciani della Zanzara. Questo è il suo commento. L'America non è un posto dove ci sono poi scorciatoie, dove ci sono paracadute, dove c'è sempre qualcuno che ti protegge. Insomma, o riesci o non riesci. Non ci sono poi tutte quelle tutele magari che ci sono in Italia. Non c'è il sindacato forte come in Italia. È un mercato molto più aperto e dunque è facile la salita, ma è facile anche la caduta. Ecco, questo era il commento di Cruciani, un commento molto realista, anche un po' provocatorio. E poi però abbiamo sentito anche Vittorio Zucconi. Ecco cosa ci ha detto Zucconi, facendo come dire un parallelo col campionato di calcio. Noi giochiamo in difesa, invece bisogna giocare in attacco. Capisco che è come per un pilota, dice, vorrei pilotare un jumbo piuttosto che un aeroplanino monomotore. Conoscendo poi le strade italiane, certamente c'è questo sogno di guidare qui, questa è la terra dei camionisti e qui è una vocazione per molti ed ha questo senso di essere molto americani quando si guida un camion, è forse l'essenza del famoso on the road, essere per strada, trasportare beni, essere i padroni di queste grandi carovane, perché i tir qui sono gli equivalenti dei famosi carri coperti che andavano nel West, quindi c'è molto mito americano, mito vero naturalmente nei camion americani. Qui devi attaccare, devi affrontare il vuoto, lo spazio, i grandi cieli del West, le grandi autostrade, rischiare sapendo che non ci sono reti di sicurezza. Se caschi, caschi fino in fondo e ti fai male. Se invece riesci a volare, puoi volare molto in alto. Ecco, Zucconi, poetico, un po' più idealista di Cruciani, insomma, i carri coperti che andavano nel West, la grande esplorazione, la ricerca della nuova frontiera. Ecco, devo dire che questo ci ha tutti fatto un po' sognare, insomma, questo tentativo di Facchinetti di lasciare l'Italia. Difficilissimo perché non si trova il visto, perché è difficile avere il lavoro, perché tutto è complicato, tutto è contro. E in effetti noi l'abbiamo sentito dal 2010 al 2011, poi al 2012. Insomma, era tutto molto difficile. E a un certo punto riceviamo anche una lettera, diciamo una lettera molto polemica sulla questione di Facchinetti. Una signora che si chiama Daniela Martino ci scrive in modo molto provocatorio, dice che noi cerchiamo di manipolare e non di informare. E leggo testualmente, mi scusi, dice, ma se lei avesse voluto veramente informare e non manipolare, l'ascoltatore si sarebbe tenuto più ai fatti, sarebbe stato più critico con il signor Facchinetti. Non abbiamo tutti l'anello al naso, dottor Platero. Lo sanno anche le pietre, che le barriere all'ingresso sono più alte di qualche decennio fa, che la Green Card in America è difficile da avere, lo Skills Migration Act in Australia è altrettanto difficile, lo sappiamo che l'economia USA è in difficoltà, non è mai stato facile, non è mai esistita l'età dell'oro, anche qualche decennio fa uno su mille ce la faceva, figurati adesso. Ecco, questo il background. Dopodiché noi, subito prima di Natale, devo dire, è stato uno dei regali più belli di questo Natale 2012, riceviamo una lettera indirizzata a me, indirizzata a Valeria Coffaro, la mia producer qui a New York, e a tutta la redazione di America 24. E la lettera è una lettera a firma Giovanni Paolo Facchinetti, che dice: dottor Platero, le scrivo per farle sapere che piano piano il sogno sta diventando realtà. Sono da 2 settimane a Windsor, Ontario, vicino a Detroit. cosa dire, ho trovato casa dove pago l'affitto, vicino all'ospedale, la chiesa, la scuola per i bimbi, la farmacia col medico, forse a Natale avrò un bel regalo, mia moglie con i bambini, così non perderanno l'anno di scuola e l'asilo. E poi in questa lettera Giovanni Paolo Facchinetti ci racconta che è stato all'ufficio della MTO a Windsor, che sta prendendo lezioni di guida, che ha pagato $150 per dare l'esame scritto, che ha già la patente G per guidare la macchina, e dice: poi se la fortuna mi assisterà, vi vengo a trovare con il mio amico di lavoro, the truck, il camion. Beh, molto carinamente Facchinetti ci ringrazia, dice: per aver creduto in un semplice camionista, e io ho avuto la vostra trasmissione sull'andata, mi avete dato l'input, la strada è ancora in salita, e in salita se sei pesante, scrive Facchinetti, il motore lo tieni su di giri, altrimenti rischi di fermarti, e questo non deve succedere. Quando sarò sulla vetta potrò fermarmi e ammirare il panorama. E poi aggiunge: da quando sono partito il 22 ottobre porto sempre con me due monete da un dollaro americano, dove è raffigurata la Statua della Libertà e l'Aquila, i miei portafortuna. Saluti a tutti, Giovanni Paolo. Beh, con noi ai microfoni di America 24, Giovanni Paolo Facchinetti. Buongiorno Facchinetti. Buongiorno signor Mario Platero. Beh, io che dire, sono commosso, glielo dico sinceramente. Rileggere questa lettera, come mi aveva commosso la prima lettera, quella in cui lei disse appunto che voleva dare un futuro migliore ai suoi figli, ci ha messo degli anni, ma ce l'ha fatta, ecco, è riuscito a arrivare a Windsor. Certo, è in Canada, e il mercato ormai è unico, il NAFTA, sappiamo, è Nord America, Stati Uniti, Canada, insomma è il Nord America. Lei guiderà per le strade americane, speriamo, deve ancora dare degli esami. Però prima di tutto cominciamo a intervenire in questo dibattito che lei stesso in qualche modo ha alimentato, cominciamo a rispondere a Giuseppe Cruciani, che così un po' provocatoriamente dice: ma qui non ci sono i sindacati, qui si rischia di prendere delle musate. Certo, la incoraggia, dice: bravo, però il rischio è di cadere e cadere duramente. Che gli dice? Le rispondo che non è informato, probabilmente non sa che qui negli Stati Uniti e nel Canada ci sono il sindacato più forte al mondo, si chiamano TIN, sia Canada che Stati Uniti. Ecco, quindi un sindacato forte anche in America, il sindacato dei camionisti, i Teamster leggendari. In effetti, caro Giuseppe, questo avrei dovuto dirtelo anche allora, i Teamster sono fra i più potenti del Nord America. E Zucconi che parla del giocare in contropiede, del non mollare, parla di grandi strade, parla anche lui di rischi, del pericolo di cadere. Cosa diciamo a Zucconi? Che è vero, avrei... Ho proprio desiderio di guidare in queste grandi strade e di vedere questi cieli grandissimi che ci sono negli Stati Uniti, nel Nord America. Ecco, e a questa signora che dice che non tutti in Italia hanno l'anello al naso e dice che noi manipoliamo l'informazione, cosa gli diciamo? Ma le rispondo solo che io l'anello al naso non ce l'ho, però io sono in Canada. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scrivetemi su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, solo andata, biglietto di solo andata, sogno americano. Sogno, devo dire, in generale di libertà. Dunque, restiamo sul tema sogni degli Everly Brothers. 1958, All I Have to Do is Dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.